Un bel colpo quello di Pepi Katona, che ha rivelato come i servizi segreti russi legati alla GRU attaccano gli Stati Uniti. In un comunicato intercettato da Pepi Katona e pubblicato su un sito russo, che è stato immediatamente posto sotto attacco per molte ore, ed esattamente un anno dopo la scomparsa dalla scena della controinformazione dell'intelligence, il gruppo Ramsay si è rifatto vivo ieri con una nota in cui avverte gli Stati Uniti: attenzione, liberate subito i cittadini russi arrestati in Qatar, altrimenti, afferma il comunicato, verranno diffusi in tutto il mondo i documenti riservati sulla situazione del carcere di Guantanamo a Cuba e gli interrogatori di Saddam Hussein. Naturalmente Pepi Katona, esperto di servizi di sicurezza dei paesi dell'est e in particolare di quelli russi, è persona della massima fiducia e quindi crediamo ciecamente a quello che scrive e a quello che ha intercettato. Ma chi è il gruppo Ramsay? Di questa organizzazione russa si sa poco, molto poco. Di se stessi dicono di essere solo un gruppo di analisi delle informazioni, ma si sa per certo che sono un'espressione della GRU, cioè i servizi segreti militari del Cremlino. Un anno fa il gruppo Ramsay aveva compiuto attraverso un sito russo un'importantissima opera di informazione che era circolata non solo attraverso i circuiti dei forum o dei siti di controinformazione, ma aveva acquisito la dignità della carta stampata anglosassone e internazionale attraverso le citazioni dell'accuratezza dei rapporti che il gruppo Ramsay andava diffondendo sugli andamenti della guerra in Iraq. Insomma, in questo momento si sta muovendo qualcosa di molto importante tra Mosca e Washington, sulla pelle dell'Iraq, sulla pelle di quella guerra illegale, sulla pelle di quell'occupazione e di questi drammatici giorni di rivolta che sembrano aver fatto precipitare di nuovo l'Iraq in una guerra. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.